Mi ricordo quando ero bambino, pensieri zero camminando, guardavo a terra, ma già sognavo il cielo e tra una stella e l'altra. Mi piaceva cercare qualcosa che nessuno mai è riuscito nemmeno a guardare. Esploratore o meno, non so che dire, c'è da dire che però le notti non le passavo a dormire. Volendo dire, ero un caso strano, già da piccolo, lupo solitario. Preferivo disegnare il mio futuro con una matita che giocare con la play sul divano al posto dell'amico vero. Preferivo avere quello immaginario, diverso dagli altri, solo con me stesso. 12 anni preso bene, chiuso a fumar nel cesso. D'altro canto, non avevo niente da ridire, prendevo la semplicità e la rendevo mia. Musica nel sangue, in mano un vinile, accendevo il giradischi e volavo via. A me faceva stare bene, zii, cosa ci vuoi fare? Ero il solito tipetto a cui piaceva viaggiare. E adesso le cose sono cambiate, e più che sognare il mio futuro, sogno un presente, senza la voglia di vivere vite scontate. La lirica si fa sentire, difendendo ciò che mi è rimasto, con i pugni chiusi, le braccia tese, ma con la faccia all'angolo. Da bambino ricordo che stringevo le mani di mamma e papà, mentre adesso le mani le stringo soltanto dopo aver cacciato roba dagli SPAC. Ma va, il metti prima è rimasto, e non c'è giorno che passo senza il ricordo di quando. Ricordo di quando preferivo disegnare il mio futuro con una matita che giocare con la play sul divano al posto dell'amico vero. Preferivo avere quello immaginario, diverso dagli altri, solo con me stesso. 12 anni preso bene, chiuso a fumar nel cesso. E sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va. E sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va, e sai com'è che va. Fingere che il passato possa tornare in futuro è come guardare qualcosa sapendo che non potrà mai essere tuo.